dal mondo virtuale come Morpheus. Catroio, minchia, sto qua, sono già sentito. Mister Zeus, che bello, non ci posso credere. È questo qua che canta stasera. Minchia, spengo subito. Minchia, sta iniziando. Parte l'MC. Questo spacca il culo a chiunque. Questo è il suo freestyle. Io spin the shit, prima affilate come coltelli. Sono uscito da GTA uccidendo Nico Bellic. Porto blow micidiale letale. Faccio rap animale. Sei un fenomeno, sì. Da baraccone non sei colto, pronunciando qualche parolone che poi tutti si chiedono questo che cazzo dici. A quelli come te facciamo vedere le margherite dalla parte della radice. Testa colpite solo da dietro, non è una magnum ma un super liquidator. Fumo come un indiano con i miei soci in giro per Milano. Tira sulle mani per il rap italiano. Tira sulle mani se ti piace il mio freestyle. Tira sulle mani per Zeus e fuori del Rhyme. Tira sulle mani e questo pezzo continua a cantarlo fino a domani. Com'è Pagliacci? Questo agli altri MC li manda per stracci. Cosa? Ancora? Minchia, non è ancora finito ragazzi, mo parte! Fischio con le dita quando passa una bella figa. Cazzo, questa come mi intriga. E adesso che però ho finito il fumo mi tiro a male guardandole il culo. Che svarione. Mentre Fox vuole una canna per la buonanotte e un giro per colazione. Fischio impegnato al bancone, mi precipito personalmente. Spiegatemi la situazione. Due cinesi che un italiano non lo riescono a capire. Chiedono aiuto al marocchino che fa le pulizie. Non sono razzista, non pensate male. Sono così un po' normale, un po' fenomenale. Non flotta niente come un Miracle Blade. Sono tutto fare, tre rap e il DJ. Pensi di battermi, ma chi cazzo sei? Io sono immortale come Dorian Gray. Questa spaccava. Aspetta, ne sta chiamando uno. Sta chiamando qualcuno. Carascio, non ci posso credere. Canta anche lui? Bella, bella. Carascio, Zeus, hip hop, nuova era. Dopo sto pezzo non arrivate vivi alla sera. Porto solo lo stilo più vero. Sfigate attraversate, si tocca il gatto nero. Mi sfidi in freestyle, tragedia tipo Apollo 13. Vi vuoi battere una sera? Sì, zio, credici. Fa il culo a voi, fottutissimi scrausi. A voi le orecchie fischiano, le mie fanno gli applausi. Come il calcio ho liberato. Se ti do un calcio ti chiameranno uomo shuttle. Dici che pipi bamba, mai solo farina. Siamo il re, vogliamo il trono, ci fottiamo pure la tua regina. Cavi, cavi, peccato tu sia ferramenta. E se dici fumare erba, invece fumi menta. E se continuo a rimare vuol dire che ti illudo. No dai zio, scherzavo con sta rima chiudo. Ovazione a Carascio, signori. Non ci posso credere. Ancora l'MC. Dice che farà un'entrata cattivissima. Non per niente detto Zeus a.k.a. nato cattivo. Questa spacca il culo. 2009, Zeus e Carascio sul posto. Forbi the Rhymes, ok? Sulle mani. Tira sulle mani se ti piace il mio freestyle. Tira sulle mani per Zeus e Forbi the Rhymes. Tira sulle mani, tira sulle mani. A questo pezzo continuo a cantarlo fino a domani. Il rap è come una sadica filastrocca. Ascolta Mister Zeus grondando sangue e cuciti la bocca. Una notte di pura baldoria. Sorrido l'autovelox passando a 200 all'ora. Zeus viking, Carascio sticky. Facciamo il botto nella testa Dario Argento. Negli occhi profondo rosso. Quel numero delle nostre rime metti orizzontale l'otto. E se ti credi meglio ci sei rimasto sotto. E questa? Mi piacciono, Carascio e Zeus MC. Li volete anche il prossimo anno questo contest? Io li chiamerei, questi spaccano, faranno strada. Tirate su ste cazzo di mani! Non vi sente nessuno, su ste mani! Così va bene, bravo! Bella Zeus!